Mi troverai fra parole dette mai e mi sentirai fra le note che non sai in quelle delusioni. Se non avrai più pensieri e ti siederai dove eri seduta ieri in mezzo a quelle sere, fra chi dorme, fra chi beve, gli altri ballano. Vieni un attimo qua, tanto non cambierà. Ce ne andiamo noi due, perché questo non avrò parole, mi sosterrai combattendo contro il cuore, contro quelle scuse già sentite e disilluse, ignorale. E sentirai la voglia di allontanarti, ma proverai lentamente a abituarti. Quando quelle frasi fanno male, ma i conigli si sa scappano. Siamo